GR Europa. E buon pomeriggio anche da Anna Migliorati. Su un punto accordo raggiunto tra Europarlamento e Commissione si farà la riforma della PAC, la politica agricola europea. Tra poco atteso il voto definitivo, intanto il presidente della Commissione Agricoltura a Strasburgo, Paolo De Castro, lo sentiamo al microfono di Cristina Carpinelli. Abbiamo cambiato diversi punti, in particolare abbiamo cambiato sulla lista dei prodotti che possono accedere agli aiuti accoppiati, introducendo una dichiarazione della Commissione che dà la possibilità di fare atti delegati per allargare la lista dei prodotti. Questo è un problema tutto italiano, italiano, spagnolo, polacco e vari altri paesi interessati al problema delle culture come la patata, come il cotone, come il tabacco e altre. Ecco, questa è di fatto, la possiamo lanciare anche così, una vittoria a firma italiana, perché poi voi siete stati molto forti su questo tavolo. Diciamo che è una vittoria dell'Europa, delle istituzioni europee, che su un tema così difficile, che occupa il 40% delle risorse del bilancio europeo, siamo riusciti a trovare un'intesa, nonostante la difficoltà, perché partivamo da una proposta della Commissione assolutamente non digeribile, quindi direi senz'altro un successo del Parlamento che ha saputo farsi rispettare e un successo del sud dell'Europa che ha bilanciato, non a caso, questo lo dovete dire, ieri il Regno Unito si è astenuto, non ha votato a favore dell'accordo. L'Europa davvero al bivio in queste ore, ora si spera in un accordo anche sul bilancio, accordo saltato ieri sera ma decisivo in vista del vertice europeo di domani e venerdì. Si guarda allora all'Ecofin straordinario di questa sera, dice il parlamentare europeo nella delegazione che sta trattando in queste ore, Giovanni Lavia. Si aprono scenari un po' più complessi, ma vediamo, è stato convocato un Ecofin straordinario prima del Consiglio e questa Ecofin affronterà il tema. Se non si dovesse raggiungere un accordo adesso, si slitta in realtà a dopo settembre. Andremo da un bilancio pluriennale, sicuramente un sistema di bilanci annuali che per gli Stati membri mi sembra molto peggio di quello pluriennale. E intanto anche in Europa si sciopera in concomitanza del vertice. I funzionari del Consiglio europeo aderenti a 3 sigle sindacali hanno proclamato uno sciopero di 3 giorni a partire da oggi. Rivendicano, dicono, una funzione pubblica europea competente e indipendente. E dopo la brutta figura messa a segno dall'europarlamentare italiano Raffaele Baldassarre, colto in fallo da una TV olandese mentre arriva in ritardo ma incassa la diaria, una bella figura la fa un altro europarlamentare italiano, Paolo De Castro, l'abbiamo sentito proprio poco fa, vincitore dei MEP Awards 2013. Il premio è assegnato ogni anno all'eurodeputato che più si è distinto per il suo impegno nelle attività parlamentari. Chiudiamo anche per oggi la nostra finestra sull'Europa, continueremo a parlarne in GR24. L'Europa vi aspetta domani alle 13.15. GR Europa è sostenuto dal Parlamento europeo. Info su radio24.it.